respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini, cominciamo oggi un viaggio di avvicinamento verso Ecopolis. Che cos'è? È una fiera, un incontro internazionale che si svolgerà alla Fiera di Roma dall'1 al 3 di aprile del 2009, che Radio 24 e questa trasmissione seguiranno passo passo dalla preparazione allo svolgimento della fiera stessa. Tra l'altro le informazioni e tutti gli aggiornamenti li troverete di volta in volta sul nostro sito internet www.radio24.it. Ecopolis nasce per parlare di città, di ambiente urbano e sostenibilità e affiancherà alla più tradizionale parte di fiera espositiva una serie di convegni e approfondimenti dedicati a tutti coloro che amministrazioni e aziende si devono confrontare con questi temi o si vogliono confrontare con questi temi. 7 sono i settori di interesse: energia, rifiuti, mobilità, acqua, natura urbana, urban design, salubrità ambientale e governance. Oggi cominceremo con il parlare in particolare di mobilità con 2 ospiti, una donna di ricerca, anche se molto particolare, e un uomo di impresa, un'impresa tra l'altro pluripremiata. Claudia Bettiol è un socio ingegnere e ci spiega lei stessa tra pochissimo che cosa significa. È stata consigliere dell'Enea, insegna, scrive, è consulente della Regione Lazio, ma ora anche del Comune di Roma per la mobilità sostenibile. Insomma, lei non è solo un punto di riferimento, ma è anche un laboratorio di idee, di imprese e di ricerca, e costringerla a parlare solo di mobilità è praticamente impossibile. Sentiamola. Diversi anni fa mi sono resa conto che noi tecnici, cioè sono fondamentalmente nasco come un ingegnere, non riuscivamo a essere compresi dai decisori, cioè c'era un vuoto proprio culturale per cui quello che noi dicevamo non veniva proprio capito e noi non eravamo in grado di modificare il linguaggio per farci capire. Allora ho cominciato a studiare dinamiche sociali, cioè come avviene la comunicazione, come avviene il linguaggio, ho fatto anche delle teorie sull'uso del linguaggio tra le differenti professioni, ho cominciato a studiare dinamiche comportamentali, scienza dell'educazione, gestione del sapere, tutto questo per creare ponti fra soprattutto i tecnici e i decisori oppure il pubblico, pensa a tutta la sindrome di NIMBY. La sindrome di NIMBY, io ho scritto dei libri già diversi anni fa su come un tecnico doveva porsi per affrontare persone che non erano competenti ma che avevano delle paure, avevano dei timori, e riuscire a spiegare loro senza far entrare conflitti di relazione ma rimanendo sugli aspetti tecnici, gestendo il conflitto, come spiegare loro quello che si voleva realizzare. Comunque resti un ingegnere che si occupa in particolare di energie rinnovabili, possiamo dire così un po', vabbè, genericamente. Sì, no, i settori mio di interesse sono soltanto quelli dell'energia rinnovabile e della mobilità sostenibile. Questa è una scelta etica di tanto tempo fa, sono un ambientalista, cioè sono una persona che vuole modificare il mondo in senso positivo, però lo vuole fare, non vuole stare a guardare gli altri che non riescono. Quindi è proattiva la cosa, per cui nel mio lavoro io ho individuato dei gruppi di ricerca su alcuni temi che mi affascinavano e che ritenevo strategici nel panorama futuro, e ho aiutato a metterli in contatto con i finanziatori. In gran parte il lavoro è stato fatto con la Regione Lazio, ho trovato dei buoni interlocutori, altrettanto sognatori, persone che volevano cambiare, e abbiamo creato insieme 3 centri di ricerca applicata, che sono il Polo Solare Organico, che si occupa di facciate vetrate in fotovoltaiche, il Polo dell'Idrogeno, che vuole produrre idrogeno da fonte rinnovabile a Civitavecchia, e il Polo della Mobilità Sostenibile, che si occupa soprattutto di veicoli elettrici, ibridi e veicoli nel senso più moderno del termine, che vanno dal quadriciclo al mezzo di trasporto merci. Di solito quando si pensa a questo tipo di veicoli si pensa a trasporto privato, ma invece c'è anche l'importantissima parte feta del trasporto delle merci. Anche su questo si lavora, no? Sì, quello è un po' più complicato perché i limiti di percorrenza sono più importanti, quindi bisogna rimanere nell'ambito dei piccoli distributori, però per esempio ci sono degli esperimenti in diverse città italiane in cui vengono realizzate proprio a ridosso della città dei centri di scambio, cioè vengono i grandi camion a portare le merci e piccoli e medi mezzi elettrici entrano in città. Tornando invece al trasporto privato, comunque Roma ha la più grande flotta di autobus elettrici. Meno male, cioè, perché sono quei piccoli le città autobus, grandi è fondamentale. Insomma. Sì, sono quei piccoli autobus che tu vedi nel centro storico, a Via del Corso, e tutto, che sono prodotti poi da una ditta italiana. Quindi ci sono anche comunque in Italia le possibilità, insomma, di realizzare questi mezzi. No, in Italia c'è una cosa, c'è tutto in realtà. Quello che manca è che è il lavoro che stiamo facendo da 6 mesi a questa parte, soprattutto con la Regione Lazio, cioè con questi centri della Regione Lazio, è quello di creare contatti fra centri di ricerca e piccole e medie imprese e poi dargli l'idea che ce la possono fare insieme, individuando un prodotto finale e creando la squadra, il cemento, l'unione, lo spirito di gruppo attorno a quel prodotto finale. Senti, a proposito di elettrico, tu stai lavorando appunto con una squadra che si è da non molto costituita, una squadra di piccole e medie imprese che vogliono realizzare veicoli elettrici non solo come prototipi, ma veicoli elettrici per tutti. Ma secondo te, come ingegnere, diciamo, l'elettrico è la soluzione migliore o la soluzione più semplice? L'elettrico è la più semplice in attesa dell'idrogeno, diciamo. L'idrogeno ha uno scenario ancora di qualche anno. Le auto elettriche sono utili sicuramente come al posto della seconda auto, cioè non quella che fa le lunghe percorrenze. Dalla teoria, sia pur già applicata molto spesso, alla pratica della mobilità sostenibile. Maurizio Mariani è presidente di Sotral, un'azienda torinese specializzata nel trasporto e nella consegna dei pasti per le scuole, per gli ospedali ad esempio. Un'azienda che è stata più volte premiata per la sua abilità nell'ottimizzare il movimento e il carico dei suoi mezzi. Da lui qualche consiglio e qualche critica al sistema mobilità delle merci in Italia. Il sistema trasportistico e logistico deve essere considerato nella sua interezza, ovvero ci troviamo di fronte, se parliamo di mobilità sostenibile delle merci urbane, quindi all'interno delle città, di più soggetti che partecipano a questa filiera, che sono il produttore del bene, la piattaforma locale, il vettore, cioè colui che trasporta materialmente le merci e il destinatario di questi merci. Su questo molto spesso non c'è collegamento. Quindi il produttore segue le sue logiche, la piattaforma locale segue a sua volta logiche diverse. Che cosa sarebbe la piattaforma locale? La piattaforma locale è laddove transitano le merci destinate al negozio, all'attività commerciale urbana dal produttore, quindi per non arrivare con il bilico, con il camion, diciamo, più grande all'interno delle città, nascono e ci sono dei transit point o delle piattaforme distributive, dei centri di distribuzione locale che praticamente ricevono le merci dai vari produttori per ridestinarle ai singoli, diciamo, destinatari. Quindi diciamo che io ho mediamente un produttore che allestisce il prodotto per una determinata zona del Piemonte, poi in Piemonte o in Torino esistono delle piattaforme che vanno poi a fare l'ultimo miglio, quindi la distribuzione urbana che viene fatta con veicoli tra virgolette leggeri, quindi con automezzi da 35, massimo 60 quintali. Lei diceva, tra tutti questi non c'è un rapporto sufficientemente stretto, a volte addirittura non c'è un rapporto. Esatto, a volte non si parlano, il problema è che il cliente, il destinatario delle merci, emette un ordine a un determinato produttore di un bene, questo produttore del bene utilizza poi sistemi di trasporto che non sono necessariamente ottimizzati su quel cliente in quella determinata città. Quindi questo è uno dei problemi principali, cioè la visione sistemica della logistica molto spesso manca, anche perché gli attori sono diversi anche nella filiera logistica, cioè c'è chi fa la linea principale e che poi scarica in piattaforma, non è poi il gestore della piattaforma mediamente che a sua volta si rivolge magari a padroncini che ottimizzano il giro di consegne con altre piattaforme ancora, quindi il problema è la sistematicità, sistemiticità, diciamo, dell'intervento logistico, questo è uno dei problemi principali. In Piemonte devo dire che c'è uno studio importante fatto, finanziato dalla Regione Piemonte con le varie associazioni di categorie, quindi da Confesergenti, Confcommercio, con la Federazione Autotrasporti Italiani, in collaborazione con il Politecnico, che sta cercando di affrontare questo problema proprio invece in modo sistemico, quindi con una visione a 360 gradi. E che, devo dire, probabilmente porterà ad avere delle ottimizzazioni non indifferenti nel momento in cui si evince anche da studi, ma su questo ce ne sono tanti fatti in Italia, che mediamente il livello di saturazione dei mezzi di trasporto è di circa il 60%, quindi abbiamo un 40% di peso / volume sull'automezzo che circola in città libero. E questo evidentemente, insomma, ogni due furgoni che girano ne potremmo eliminare quasi uno, se riuscissimo ad ottimizzare i flussi della logistica nelle città. Quindi abbiamo detto proprio un problema di logistica, nel senso di rapporti tra produttori, piattaforme e destinatari, un problema anche proprio di mezzi che viaggiano troppo spesso vuoti, in parte vuoti, che potrebbero invece ottimizzare il carico. E per quanto riguarda il tipo di mezzi in circolazione, sono da aggiornare oppure... Direi di sì, il parco veicolare italiano è abbastanza, insomma, non è modernissimo, anche perché a onor del vero un automezzo viene utilizzato da un padroncino per 5, 6, 7 anni, evidentemente soltanto da pochi mesi, da neanche un anno si trovano in commercio i mezzi Euro 4, ad esempio a gasolio, dotati di filtro antiparticolato, che sono oggi un po' il mezzo più ecologico. Ora qui bisogna fare una distinzione e un'affermazione precisa, cioè il mezzo ecologico per eccellenza non esiste, ovvero, e siamo in presenza oggi, il mercato offre automezzi a metano che hanno valenze ambientali di un certo tipo, che vanno, diciamo, a ridurre l'effetto acuto dell'inquinamento, cioè le PM10, le polveri sottili. Per cui il metano, che però, attenzione, tappa un buco e ne apre un altro. Il metano è un gas a effetto serra, laddove viene prodotto naturalmente, quindi non è neanche una fonte rinnovabile, come non lo è il gasolio. Quindi bisognerebbe andare a fare un'analisi precisa. Poi ci sono degli automezzi elettrici, ma anche l'automezzo elettrico stesso, laddove sia alimentato e le batterie ricaricate con elettricità non derivante da fonti rinnovabili, non sto assolutamente risolvendo il problema. Quindi la visione diciamo sistemica dell'intero circuito della logistica è l'elemento fondamentale per un approccio serio, sereno, di lunga durata. Ci fermiamo qui, grazie a tutti per l'ascolto. Vi ricordo gli aggiornamenti su Ecopolis sul sito internet di Radio 24. Per scriverci invece respiro@radio24.it. Ora la linea passa al riposo del guerriero. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.